Rocco, ciao, ci sentiamo. Oh, ciao, Chiccoli. 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio. Ora, ora, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Sono in casino sotto l'anno e lo faccio io. Dimmi una cosa, Roger, ma i turismi si stanno ritornando normali o ancora sono pochi? Dico, rispetto a pre-Covid, per dire, rispetto a 2 anni fa, come siamo messi? Meglio, perché la gente da quando è entrata la zona bianca qua ha cominciato a smarcare già da prima degli anni scorsi. Quindi sta bene, no? Dai, almeno così i ristoratori cercano di lavorare anche loro. Sì, ma la gente sta arrivando, parecchi anche. Dai, perché certo l'anno scorso è stato un bel problema, è iniziata molto in ritardo la stagione. Quest'anno il caso è andato in anticipo rispetto al solito e speriamo bene che riescano a recuperare questi del turismo. Continua a sentirmi male, no? No, non è che ti sento male, è come adesso ti sento un pochettino più tranquillo, come che tu parli col microfono attaccato alla bocca, un bel amplificato ti sentivo. No, non ho toccato niente. Ok, no, ti ascolto bene, il segnale sei oltre 9 qua. Grazie al lavoro come farò bene. No, grazie a Dio già stiamo lavorando bene pure, però il problema è più lavori più tasse devi pagare e te ne vai rumazzo. Per dire male, lavori di meno, paghi meno tasse e la salute è più tranquilla. Perché cazzo, stiamo lavorando bene, però cazzo, tutto quello che cazzo lo devi pagare in tasse e ti aumenta la stanchezza. Giusto? Io, in tutto siamo 3 dipendenti più io e mio fratello. Ma come, voi siete titolari? Siamo titolari, non lo so, però le tasse le paghiamo lo stesso. Ma certo, dillo a me, noi abbiamo 40 sulla grotta. Adesso c'è un periodo, siamo stati 20-22 quando ero bambino io, si poteva fare, adesso è inconcepibile. Ma c'è macello ti piove, ma c'è un casino, stiamo uscendo. E voi quanti siete? Metto 40 siete addirittura. Come siamo 40 persone? Ma scusa un attimino, 40 per quale motivo? Se metto la parte in 3 i trattoristi. Aspetta, questo dice la gente a bordo, no? Quella botta per il rizzaggio, quella che mette praticamente le catene semi rimorchi, che mette in sicurezza. Ah, siete voi, non è quelli della nave quindi che lo fanno questo lavoro? No, siamo sempre voi. Come possono fare quelli di bordo? Io pensavo invece fossero quelli di coso, di bordo, quelli marinai, diciamo, quelli che si occupano della navigazione. Per cui in ogni porto c'è sempre, per dire, se vai a Genova, ci sono gli addetti del porto che legano i coso, le motrici ai rivolti. Per forza, in ogni porto dove vai c'è la compagnia portuale, per forza. Non lo sapevo, ma voi, se tu domani, scusa, Eugenio, devi viaggiare, andate a fare un viaggetto a Genova, avete agevolazioni particolari o pagate uguale a noi? Prima avevamo agevolazioni, poi come tutte le cose sono andato a scemare, quindi pago, diciamo che ci sono metodi per imbarcare, insomma, ognuno conosce i segreti del proprio lavoro. Già ho capito, non si può dire, dai, già taglio con freddo. Che ora ci mette la sera? Alle 7? Non ho capito, scusa. Che ora ci mette la sera? Alle 7? No, noi chiudiamo alle 6, fino alle 6:15 lavoro io, dai. Però apriamo alle 2:30, no? Fino alle 2:30, ok. Perfetto. Ci sono quelli che aprono alle 3:30, chiudono alle 7:30, che qualcuno si trattiene a pensare noi. No. Io gli orari li rispetto, che cacchio, non puoi rovinarti la salute, già ne facciamo abbastanza di ore. Lo conosci un certo Paolo, mi sa tanto Paolo, che ha una cosa che cambia i orari, rimane una via dietro la questura praticamente, e via, adesso mi sfugge il nome. Ma perché devo montare l'autoradio? Devo cambiare l'autoradio, però la moto. Non allarmi che hai conosciuto con quella rossa. Vabbè, qualcosa facciamo anche noi. Come? E facciamo qualcosa anche noi, se ne occupano i miei nipoti, stanno facendo quelli con il coso, con le telecamere, a me anche l'altro giorno abbiamo piazzato uno, un amico col camper, gliel'ho fatto mettere, quindi autoradio che hanno telecamera, Bluetooth, eccetera, eccetera. Non so cosa vuoi installare tu. Mi vuole fare l'autoradio vecchio per metterne un altro. Però il mio problema, mi sorge un dubbio, perché io il cupolino di davanti l'ho smontato, e l'autoradio mi sembra un po' spessa per l'autoradio che stanno facendo adesso, e mi rimarrebbe il buco che c'è, già esistente, in largo, cosa si può fare? Io mi sto rivolgendo a questa persona perché mi ha detto che fa lavori particolari. Ma cosa vuol dire largo? Profondo o largo? Perché le dimensioni sono un din oppure a due din, le autorità sono a un din o a due din, diciamo la normativa, di standard è a un din normalmente, però bisogna avere la moto tua, cosa hanno messo, se c'è una cornicetta di riduzione, vedete nella multipla devo mettere una cornicetta, nella 1 devi mettere, scusa nella 1, nella punto bisogna mettere una cornicetta adattatrice. Sì, ho capito, il motore di ovvio è un po' spesso e non vorrei che mettendo la sua radio nuovo ci toccasse dentro, cioè nel senso che il buco rimane il buco del cupolino era molto più largo della sua radio stesso il nuovo là, diciamo, non ho capito. Comunque avvicinati che la guardiamo, perché noi le facciamo queste cose qua, sto facendo le fare i miei nipoti, se ne stanno occupando lui, un mio nipote anzi, che fa anche lui e coso, meccatronico, fa tutte queste cose, centraline eccetera eccetera, l'autoradio è già una cosa abbastanza, se ti avvicini e vediamo se è come standard DIN per adesso, se rispetta le misure DIN oppure se ha necessità di una, che autoradio c'è installato sotto? Registrato un attimo, oggi che autoradio è installato tu? Radio 3 Santiago 3 dalle mie parti, buonasera. L'autoradio a Beneviso, capito? Quindi è l'originale, devi avere le dimensioni, comunque se ti avvicini lo guardiamo e lo vediamo subito. Avanti di nuovo Claudio, credo che sei tu per il controllo. Il suono era inconfondibile, la modulazione era inconfondibile, anche se non me lo dicevo lo sapevo già. Segnale 9 più 20, radio bella piena, corposa, potente, dai. Molto fedele alla realtà. Sì, no, conosco, dai. È inconfondibile il suono, come è inconfondibile il suono di quelli K, è lo stesso, cioè non sono inconfondibile la modulazione, detto in modo più pratico, però è molto bella, diciamo una modulazione rilassante, molto pulita e chiara, come piacciono a me, non è di quelle fastidiose che devo ripetere, chiedere la ripetizione di quello che hai detto, perché non si capisce, molto chiara, pulita, complimenti per la modulazione. Ciao Claudio, ben sentito, quando vuoi entra, siamo sempre qua con le porte aperte, di nuovo a te Eugenio. Ciao Claudio, all'inizio di basso, ma poi la radio, il segnale qua, il segnale proprio un po' basso, però la radio è anche Super 5, ti ascolto alla grande, non so se mi ascolti, comunque buonasera Eugenio, a quello che fai, ciao. Scusa un attimino prima di chiudere Claudio, quanti whisky gli stai dando per curiosità? Assolutamente alla grande, se vuoi fare delle prove in FM così vediamo un pochettino se cambia il segnale, se cambia la modulazione, sei d'accordo anche Eugenio? Eugenio, se vogliamo provare in FM sono curioso di sentirla con la radio. Va bene, vai FM. Ritorna in AM oggi. Sono qua. Avanti. Attenzione, please, do you copy Italy, Sardinia entra, può essere. Attenzione, K, copiate Antonio. Antonio Rivazzi, in una flebo, veloce e poi di nuovo in forma. E cosa ti può mangiare? Invece Eugenio di quelli che si deve fare tutta la rossizza, il pesce, la ragosta, i gamberi, piano piano. No, tutto di mare, perché a me la roba di mare non ci vuole fare. Cacchia addirittura, allora non sei molto del reso tu. Forse una gimagna di zuffa, di roba di mare. Ma tu di origine sei portato il reso, il tuo babbo, tuo nonno, Eugenio. E allora, mio padre è nato nello scoglio lungo, Mario, mi pare di strano oggi tu che non mangi il pesce, cacchia, come li fai nel Nuorese, in Barbagia e non mangiano il porcetto? Ma io da bambino proprio non portavo il pesce. Mio madre fa troppo, tanto. Quando la ragazza era roba più ricchia, ce l'avevo visto nella pasta da bagno, non è l'ufficio. No, non ci vado a fare. No, io invece carne zero, mi posso mangiare qualche fettina di fette di pollo, così pollo arrosto, salsiccione fatto da me, proprio arrostito bene. Io mi divento matto per il pesce invece, pesce è tutta la roba di mare. Voi sa che siete così, voi sa che siete così, la roba di mare, ma io la roba di mare non... Cioè, mi sono stufato, mi ha stufato, ma ci mangio di buffa. Già lo so, come tutte le cose, se stai tutti i giorni mangiando pasta al forno, alla fine preferisci l'aglio e olio. Avanti a tu. Campa, campa. Io già mangio tutto, ora. Cioè, lo pesce un po' meno, mi piace un po' di meno, però già mangio anche altre cose. La pasta asciutta mi piace un bel me. Ma non so dire se il mio fratello c'ha la ventola interna. È certo che sì. Quindi ci dovrebbe attaccare così. In situazioni quando spingi parecchio c'è un bel caldo, molte volte si attacca. Almeno il mio nel 44 che mi ricordi io mai. Guardate, non ti alli mai il collo, io ci con a metà potenza e vedete l'apparecchio, tra l'altro è un apparecchio molto robusto quello lì, e il muletto lo chiamano perché è un attimo, nel senso indistruttibile, lo accende dopo 10 anni e funziona sempre al contrario del fratello maggiore che se lo tiene fermo qualche problemino se lo dà, per cui tienetelo lì senza sovraccaricarlo troppo, tanto se fai da 50 ne hai 70-80 non c'è banuta, la differenza la notte se vai da 10 a 80 quello lì va più che bene tenendo la mezza potenza. Ma è giusto così, aspetta, c'è qualcuno che sta parlando sopra di te, avanti, chi vuole entrare? Potenza. Allora è tu Antonio, perché c'è un segnale leggermente superiore ad Antonio, ma mi scusa Antonio, però oggi tu non è Antonio. Capa, non me l'ha avvitato bene il PL, vado a vedere adesso, va meglio? A parte mia sta andando sempre grande, è fortissimo, Eugenio, diciamo a lui che è più lontano, avanti Eugenio. Mi sta prendendo forza, senza l'entrare fa, Palestra? Come sono uscito dal lavoro sono su palestra. Di che sport? Ma di che sport? Quello che facevo prima l'ho mollato, non coincidevo gli orari. Questa è quella di peso, funzionale così. Ah, pensavo tipo arti marziali, pugilato e cose del genere. Ho fatto 10 anni di MMA, ma che dentro la regna, dentro la guardia, boh basta, non lo so voglia. Andavi da Dugaretta da Spillaco e poi dici boh basta. Sì, mi ha giubilato, mi ha giubilato, non mi ha giubilato. Sì, già lo so, quello è normale. Però si trova sempre qualcuno che ti fa male. Mi sembrava strano che non eri mai andato a far pugilato. Anche sono tutti fissati in Ciroghe. Ma guarda, siamo fissati. Così ho fatto tanti anni. A Porto Torre sono famosi per il pugilato, tutti i migliori pugili ne sono usciti a Porto Torre. Però io sono, facciamo rispetto, non mi ha fatto il mio figlio. Vabbè, però è sempre buoni insegnamenti, anche se uno ti rompe le scatole, sai come ti curi in un bel bugno a bocca. Anche alla formica se vuoi schiacciarla si gira e si fa pizzicare, quindi quello non significa niente. E vabbè, però ci sono sempre buoni insegnamenti. Nel caso che ti difende. Sa cosa penso che tu sì, arrivi bene. Posso. Andare. La mano è giù, va. Signori, dai, io vi saluto con il masticare. Ci sentiamo se ci siete più tardi. Lei accennò già che adesso tra qualche minuto va a lavandigare, ok, ho cambiato un attimino radio per fare delle comparazioni, questa sicuramente arriva un po' più forte, la modulazione non so se sia cambiata. Una roba, guarda, tu esci sempre una meraviglia. Eccomi qua, questa va un po' meglio, va. Ehi, vabbè, ok, dai, oggi se dopo coincide ci facciamo una chiacchierata, dai, adesso anche io vado a mangiare. Ciao Eugenio, ciao Antonio e ciao a tutti gli eventuali amici qua sul canale 10 QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao, vabbè, casomai se ce la faccio ci vediamo domani mattina, adesso vediamo se, certo, se ce la faccio, lavoro con il tempo perché ogni giorno è un giorno all'otto, una volta non c'è di buon, no? Ci sentiamo, ciao e buona cena a tutti, ciao ciao. Ehi, ciao ciao tanto. Ciao ciao, ci sentiamo qualche giorno che sei a Sassari, che sono libero, se vediamo un caffè a che cosa. Certo. Eia! Ma quando vuoi, non c'è problema, io sono sempre disponibile quando non lavoro, sono sempre disponibile. Capa, la base è sempre travagliente, c'è un periodo. È un periodo che ho per me lo stato. Va bene, ci sentiamo, ciao! Ciao G, ci sentiamo! Dai gare! Dai i miei panni e fatti! Per la fotosaglia ho svitto quasi a 9.30. E dopo che arrivi tu, più forte di te puro. Gerardo, sono di foto. Ciao Genio, buonasera, ci sentiamo. Come sono un turno per il fatto, avanti. Franco, amico di sorso. No, è Marino, Hai sbagliato, Gio, hai sbagliato. Comunque non va bene lo stesso. Perché con il volume basso, molto basso, un attimo. Ho trovato questo passaggio, Genio, un gruppo si approva. La carica Eugenio, capo. Hai tutto? Capo, buona carica Eugenio, ci sentiamo. Ehi, Amari. Come ti anda? Tutto ok, Anto, tutto ok. Saluto Roberto, sono ancora ascolto. Buonasera Roberto, ci sentiamo. Tutto a posto, intanto, inoltre ti valenti e sei stato a lavorare, Anto, basta, avanti. Capa, qua c'è i 9.20, Maria, Radio 5. Già va bene, va, già va bene, per essere piccolino piccolino, già va bene, anche tu già stai andando abbastanza bene, va. Capa, capa, hai visto che bella seratona sabato, È bello, e non sapevo da quel circolo, non tu, il primo, pensavo che era il secondo, pensavo. Ma che tu canti, quale sera? C'è un cane, no? Mi sbaglio. Mugoni, Vabbè, ti lo chiamo il piccolo Centano, Mugoni, sì, è bravo, sì. Conosco abbastanza bene il padre, era molto amico di mio cognato. Conosco abbastanza, abita in zona mia, il padre, in zona mia abita. Capa, già lo so già, questa faccio quelle zone lì. La roba era metà e metà, era. Le luci erano le mie, le app erano le mie, dei microfoni e via. Poi ha cantato Guido Squalo Parti, come si chiama, poi ha cantato, non so se lo conosce, ha fatto un po' di brani Franco Bernardinelli, non mi ricordo adesso. È vera il gruppo sassarese, c'era il suo filo e cosa, carta, come si chiama? Già va bene, va a passare serata tu, va benissimo, è l'amore qua abbastanza bene, io anche a lato conosco, va bene, vai, a che ora è terminato, oggi la mattina? No, a mezzanotte. Ecco, mezzanotte. Il sabato no, perché io vado in garantino il servizio. Sabato notte, no? Capa, abbiamo mangiato tutto, Costantino, qualcuno c'è Costantino? Uno, sì. È da lui, Ho capito, va bene, va. Mezzanotte va benissimo. Guarda, io sono entrato alle 5 mattina, c'era il corso, pieno di gente, sembrava di giorno, alle 5 di mattina, 4 e mezzo, là, 4, 5 e un quarto, sembrava di giorno. Ah, che di pasta che ti vimo, a che cosa da Costantino? Qualche sera, vabbè, io non è che ci sono tutte le sere, qualche giorno te lo dico, se sei in zona. Adesso guarda, tanto forse ormai rimango in zona mia, capito, ma rimango al coso, all'appartamento, che mi hanno chiamato un momento, sta truccato, dunque sul camion, ci vado più sul camion, tanto mi sono preso lo scatto, sai scendi, a me va bene, dove ero prima, è già del Zan in Chivi, adesso mi hanno richiamato e da domani sono volte in Chivi, compreso, mi va bene. Di mattina pure, per esempio, io sto facendo le domeniche, lavoro, alzo altre due domeniche da fare, capito, da lavorare, da riposo il sabato. Qualche sera, sono vicino, va, non dirti, se sono libero, mi avvicino. Ma sono diventato io, non faccio a casa, è difficile uscire, è difficile, perché c'è un casino in Europa, tu lo sai, abito in campagna, c'è sempre da fare, perché c'è sempre da fare. A ti piace dalla campagna, pedala. Esatto. È bello tutto quello che ti piace, niente da dire, detto che sono rinato, perché sono rinato, ci avevo già 20 anni, poi ho anche i miei nipoti qui a casa, dunque. E dove ci andiamo? Vai a vendere, guarda che loro abitano giù di sopra. Sono nati qua, dunque. Siamo tutto qua. No, non mi faccio lamentare. Però se ci vuoi fare qualcosa devo farla, perché è brutto essere sporca, capito? Caffa, lo so. Però pure sei sempre in tu Maria, o così è? Ma c'è uno che si sta sopra modulando, poi c'è qualche non lo so, forse di fronte di te, prova a modulare anche tu. Lo sento ogni tanto, bro. Le scariche, queste qua sono le scariche. Ma che rompi palle, se mi ero beccato attacco lineare, a voi lo posso vedere io. Sì, comunque già è bello lì, un bel ambientino. Non è che io ci vado tutti i giorni, però mi sono anche tesserato. Già va bene, intanto va bene, insomma, vedo anche il ragazzo, mi sto già lavorando, una cosa l'altra, non sabato, un paio d'ore, non puoi passare, cioè tu c'è anche la signora, sì. Anche lì si è tesserata. Già va bene. Va troppo bene. Benissimo, tu c'è il mio nipote che mi sta chiamando, va. Mi ha fatto piacere sentire tu. Ok, salve la signora, sono tu, tutti gli ascoltori, io vado in QRT per un momento. Ciao, ancora presto, la sentiamo, va, ciao. Ciao Mari, ci sentiamo, ciao. Sta boh, il gatto mi ha fatto una figuraccia con Mugone. Cazzo, ma quando mai non sai che un cantante si bocca con il microfono suo? Sono dovuto andare io a casa a prendere il capo che ce l'avevo io. Il Canon maschio e femmina. Ed non una via. No comment. Capa, per fortuna gli ha giubato un guru io, vai, se no mi abbia fatto una figuraccia, mi ha fatto. Beh, certo. Vabbè, finché si può fare. No, volte e volte, lui si prende un bicchiere d'acqua, più di una volta. Cavolo, ogni cantante, anche Bernardinetti, ci ha portato un cazzo microfono che costava... Canto un mixer che va in Antaruda, Urino, Edoli, ti vedi. Un microfono di quello di tipo Eddie Springsteen, quelli particolari, che costava €2.50 costa il suo microfono. L'ho montato io, cazzo. Capa, e poi abbiamo montato il Canon, l'abbiamo montato insieme e gliel'abbiamo montato. No, la tecnica è anche importante, perché secondo chi viene, un conto è fare un karaoke in brencio, ma già se ne è reso conto pure lui. Un conto è quando gli ci personaggi vengono in chiave a cantare. Cazzo, ci vuole professionalità, vivo. Comunque sia, guarda, Costantino non è, sai, già ti sei abitato in Budone, che siamo di capo. Un impianto veramente ultimo, Piante karaoke suo è più che ultimo. No, quello sì, il giarugrido già, vale nicchi qua come te gaccio. E ma guarda che anche il mio impianto non è male, pure c'è meno potente delle sue, ma prima o poi me le prendo pure io, me le prendo. Io voglio proprio comprare le nicchi perché mi piacciono anche come suono. Giarugrido già. Ci si aggancia al minimo e si contento watt, ti auguro che spara a voce. Ah, oh, vabbè, io intendo dire per quanto riguarda la microfonia, che suona bene, ha un ottimo impianto. Non è solo le casse, ma pure i microfoni buoni. E adesso mi dai i microfoni buoni, mi sembra che pagati 300 euro i microfoni. Capa, non hai visto di me, non hai visto. Come si sente, poi anche il mixer suo è buono. Capa. Anche i miei quando li ha visti ha fatto tanto di cappello, ha fatto anche i miei microfoni. Sì, no, comunque lui c'ha un suo impianto. Poi chi c'ha? Sandrino Enzo Mugoni, in diretta. C'era Sandrino pure con Tony Pilo, sicuramente. Niente. Comunque io c'ho problemi, non c'ho linea. Proprio zero, qui c'è. Se vado a chiamare, aspetta. Chiamo. Mi dice non ho registrato sulla rete. Boh, è roba di loro, perché Windy prende bene. È a posto. Ma ne ho rotto le balle però, Che pensa tu mani, è bene ciappo. Mi costa, chi se ne frega. Ciappa, la notizia a me. Ma vaga, se me l'aveva fatta a me chi l'aveva. Charles Leclerc, che il pilota della Ferrari, piomba alla Red Bull, 3-1 con Verstappen, perché è impossibile nemmeno sempre risultati. Vai, gli avrete ascoltato una cosa, vai dirne, vai. Avrete. C'è una roba drammatica. Qui dirati bene, niente peggio. Beh, oggi è così, mamma mia, è stanchissima. Vai, cuocomane. Oi, buonasera Natalino. Buonasera a te due, là, sono un ascolto. Cappa. Dì, buonasera a tutti. Ti ha salutato Sara, ha salutato. Salutala anche da parte mia, là, che non posso curvare. Cappa, che sta succedendo? Torra Ghiddu. Sì. Ma che va a cagare. Natali, se ti fai qualche cosa, mi va un frugio, sto arrivando io. Ehi, non ti preoccupare, già ne parliamo di persona. Aspetta, andiamo disturbando Natali. Ehi. No, io grazie a Dio, guarda. Ah, su io, su questi famiglia che siamo, sono 4, 8, 12, 16, questi famiglia siamo nella mia vita. Senza contare quelli di fronte. E anche io non li disturbavo, su questi famiglia disturbavo una famiglia solo. E basta. Allora, da quando analogico a digitale, non ho avuto più questi problemi. Scappa! Io niente, un rompimento di scatole. Basta a tirar via la tua antenna. Arrivo per non prendermi il cazzo, gli dico, ah, va bene, non dico manco niente. Dico, dove abiti tu? E che ora ti sto disturbando? L'indomani, domani, cazzo, intendi? Potevo un'antenna sugli aiosso. Lasciaci per Briano, non è più tempo di Briano, Anto, non è più tempo, lascia perdere, carità, va. A me io non ho più gana, diventa qualunque pure, agenti, agenti malati soprattutto, la fottuta. Ci voglio i problemi miei, proprio i problemi di là che devo caricare, si ammazza, ci metti, sto disturbando, ciao, non parlo più. Deve stare lì a fare guerra, non mi interessa qua, non ho più pazienza come prima. Ah, vero, dico, ma comunque, abbiglio per il sicurante naioso, va, adesso mettiti la nuova. Gappa, qualcuno voleva entrare, ho sentito una portante. Gappa. Oi, oi, oi. Comunque, è così, aspetta, grazie. Gappa. Già, no, cosa abbastanza buono perché pure io quelle io li avevo viste da Ferraris e non c'avevo soldi, se no me li avrei comprate con le casse. Mi sono innamorato subito come li ho sentito suonare. Lo so, anche a me piacerebbe, ma costa un pacco di soldi, non posso affrontare quel tipo di spesa. Adesso, come sai bene, quella spesa là e quella la devo affrontare per forza. Gappa, te lo so già. Vabbè, ma prima o poi mi ribiglio, ti giuro che me le prendo, perché mi piacciono come suonano. Cioè, sono livelli vero, le BBT costano un botto, costano. Quelle non costano tantissimo e c'hanno un suono che è micidiale. Beh, più compri, più le paghi e più hai. Capito? Capa, no, ma dico, quelle costano un po' di meno, costano, però sono buone, cazzo, io li ho sentite da Ferraris. Ma ho fatto anche tutto il preventivo, me l'ha fatto. Cazzo, andava con una bomba. Lo so, ma costicchiano. Cosa fai? Ma non è solo il costo delle casse. Vabbè, io già c'ho i capi. E se inizi da zero devi... Qui buone cazzano manco 1500 euro ci vogliono. Ci vogliono i capi, ci vogliono i stativi, ci vuole il mixer, ci vuole questo, ci vuole quest'altro. E un po' così, no? Lo so. Cazzo, vedo quel tipo che hanno investito a Prodanieta lì vicino a Promocamera. Cazzo, morto. Gappa, poverino, l'ho visto già. Dove mala sorte stava guardando quel pezzente, cazzo. E che c'ha l'ugusci. No, veramente la gente sta impazzendo, cazzo. Bisogna fargli fare un poco di revisione di patente. Chi è che vuole entrare? Ho sentito poi il colpo importante. Gappa. La gente è impazzente la gente. Lo so. Poi aveva anche bevuto là, sicuramente. Gappa, mi stavo dicendo chi è, ma io adesso non mi viene in mente. Questo ragazzo. Si chiama Giovanni. Non lo so. Giovanni Matta. Matta. Il tuo Matta io riconosco già. E Matta io conosco quelli anni addietro, facciamo bugie mi pare. Gappa. Ma roba da matti, cazzo, veramente la gente in questo cazzo della macchina sta impazzendo, sta. Acciu che qui si è ponitici a bidure quello e quell'altro. Sì, devono conoscere i cartelli perché li devono conoscere, ma cazzo devono avere la tecnica guidando, non vengono dai vanno, devono essere proprio tranquilli e bravi, non argomentiti di tanti cassini. c'è troppa gente distratta, cioè. Lo so. E tu là lo stai sempre? A un grido via. E piano piano là. Sembra l'altro giorno che me l'ho presa la partenza, sono passati fatto un conto, 99, 20, 21 anni. Pare rimane male. Scappa. Sai cos'è il problema? Se te la giochi la patente così con. Che magari ti trovano, non so, bevuto. Sei fregato, sei una tagliente bei bussi. Ti viene annuale. Se ti sgamo un'altra volta, boh, sei fregato. Scappa. Così è. Oh ya. Proprio così. Ma c'è un po' di gente che guida troppo, troppo ragazzo di cane, troppo sabu, ce ne fregano. Quello là lo stesso, quello di Santa Maria di Pisa, quei due. Quello là gli ha invaso la corsia, ma è dura camminando di troppo. Troppo, c'era stata 50, forse se la burgia hai fatto. Lo so, tutti e due hanno sbagliato. Ma di più che quello che ha sbagliato, quello che ha fatto in versione AU. Quella la patente non la vede più. Quello lì mica. Già adesso devo vederlo in faccia, sa. Non avevo capito chi era. Adesso quello lì la pigliavona, perché non essendoci neanche altri due colpevoli. Perché se si erano salvati qualcosa gliela avrebbero fatto a fare eccesso di velocità. Perché loro stavano camminando troppo. Un tratto che devi andare a 5, vai a 60. 70, ma minimo in ambito di 100, in un tratto del genere, ma tu sei mancante. Sì, fai che la bulla a 160. Ah, non c'è bisogno di camminare così in quel tratto, vai piano, tranquillo. Non ti appiccica nessuno. Sono morti sul colpo. Camminando di poco, già. A quanto ho capito, dice che a quanto hanno detto, poi non lo so, come la maledetta, ma la dico. Dice che si è sentito una delle lamentele, poi non lo so, poi magari non ce l'hanno fatta, sono morti. Roba sul colpo proprio, e magari stava andando stato di shock, l'ultimo sospiro, non lo so. Cazzo della macchina, quanto è bella, è pure un'arma, mi. Poi un'arma in mano. Cazzo non ci vuole capire che c'è tu in un posto dove a 50. Cioè, perché è tutto limite di 50 lì, no? Non viene da Gurrino. Cioè, vai a 60, 65 massimo. Cioè, non puoi andare a cattapiedi dentro, ma stai scherzando. Se vai a quella velocità, oltretutto riesci a fermarti. Dico, un colpo però ti beh, meno se di nulla. Lo so. Cosa vuoi fare? Basta, carità. A noi ci hanno fatto vedere tutte queste cose, l'impatto, come si comporta, ci sono tanti anche su YouTube, me lo puoi vedere anche tu, una macchina come frena, come prende l'impatto, tutte queste cose ci hanno fatto vedere. Prendere a 50 è un conto, prendere a 50-60 è un conto, prendere a 100 è una tutta cantanaccia, goza, cambia tutto. Noi c'è la frenata, l'ABS, una macchina senza ABS, con l'ABS, tanti cose, non ce l'hanno fatta a vedere perché c'è anche la sicurezza stradale adesso. Lo so. E perché non c'è la marina ABS lo stesso, ce l'ha. Lo so, ci hanno fatto vedere come frena una macchina. Se tu freni non ti si bloccano le ruote. Capito, non è come senza ABS che ti si bloccano le ruote, quindi la macchina tende a bloccarsi dritta. Senza ABS, se tu dai una frenata, la macchina tende anche a scomporsi. Ci sono tutte le prove. Beh, se l'hanno creata, cioè se l'hanno inventata, vuol dire che cioè, sì, fa così fa a colpi. Ma cioè, se una macchina vecchia freni, inchiode, boh, invece cioè, la mia si fa come si dice non ti va dritta, è un'ottima cosa quella. Senza ABS prende un'altra direzione, perché la macchina tende anche a scomporsi nel posteriore, invece con l'ABS fa così, frena, poi c'è quella là, dietro il posteriore, ci sono delle problemi, ci sono. Naturalmente è stata una persona che usa ne va. Sì, io ho già provato pure voglia, Provato e come? Boh, cosa ti dico, ho sembrato andare in piano. A me piace ancora, però un attimo mi ha detto, te esci qualcuno e sei buttito. Una volta scendo a... poi un paio di anni fa, prima del Covid, dai, diciamo, scendo a Olbia, ero solo, ci ho fatto scendere a 160, poi ho mollato. Bene, fa un pezzo, neanche sta urbana, cioè, se non ci sono incroci a caso è anche meglio tirare la macchina, è anche un po' meglio. Tipo con le strade principali, in autostrade è già un conto perché non ci sono incroci a raso e quindi c'è la sicurezza, ma che tutti buoni a farlo, in preda niente, che devi andare 50 km orari e vai più del doppio, sei proprio un cretino, lo sai che l'ostacolo te ne può uscire in qualsiasi momento. E altro, ma ci vuole anche esperienza per guidare, non è che pigli le pose e guardi, no? Ci vuole esperienza, ci vogliono anni di guida. Lo so, ma infatti vai piano, non c'è bisogno di correre. È perché sei inizi già, da quando hai appena la patente, fai lo scemo, azzardi troppo, non va più bene, capito? Non va più bene, è un casino. Non va più bene, no, perché devi andare come i cristiani, non ti buoni a pumpanno, cioè... No, non c'è bisogno di gurri, un pochettino allegrino, ma cazzo di buona corri. Oh, andiamo piano, non andiamo a ammazzarmi con nessuno, no? Lo so, casino, questo mai faccio il dentista alle 10. Mi alzo prima, così mi preparo tutto quanto. Pensa che dopo il tram, per fare tutto il giorno ci mette tipo mezz'ora quasi, da. Lo so. Chi voleva entrare? Mi pare che c'era stato un break, avanti! Chi è? Se volete sentire un break, fatti fare in culo! gli si mucimia! La mamma! Ogni volta che passa nel motto rintengo, diventa l'apparecchio! Ma visto che ci porta, io li sento sotto! Che cosa? Allora senti pure tu la moto. No, questi la radio sotto sento. Già lo so già. Scappa. Hola, hola. Così va un po' meglio, va. Cazzo, adesso se domani non mi ritorna l'operatore è un casino. Io sono tanti anni con Windy, ma non mi è mai successo, lo riparano subito. Ma perché non sono Windy, sono solo Windy in strada a casa, è un bijou. Allora, avevi cambiato, baby. E tu me lo Vodafone. Gaggata. No, ma con la Vodafone pagavo 25 euro. Con loro di meno. Sì, ma pompa burro di più, ma voi che avete la fibra? No, normale. Scappa. Il babbo ce l'aveva la fibra in casa, ora ne ha attaccato chissà cosa, mai ha fatto una cosa del genere, vabbè là. Casino. Ah, chi ti ha attaccato, ma che mi ha figli fa. Boh, cosa vuoi di ricchia, non la giù. Ma allora, a me mi hanno spedito il modem, non l'ho fatto l'impianto, fuori tutto quanto, l'ho messo la scatola, ho posto il cavo, Stavo aspettando per cambiare, ma mi hanno detto che pagavo di meno. E che la più vici. Via del Covid, non ci sono più venuti. Cappa, io c'ho un telefonino Wind Fostra, c'è Wind. Allora vabbè, è tutto Wind, non è più in Fostrada. Tutto Wind, ha assorbito anche la 3. Lo so. Io sono tanti anni con loro, però alla fin fine ti danno il servizio buono. Qualche euro in più, ma funziona bene. Funziona bene. bene alla fin fine. Vabbè, quanti c'è la linea fissa, sì? No! Vabbè. Ci aspettiamo domani, se no faccio per loro, io vado e cambio. Altri 30 euro? Pazienza, vediamo un po' cosa mi propone la Vodafone. Ma è l'IAD che sono buoni. C'era sa ragazzi della bomba, c'era. Vai l'IAD. Quanto paga? Quanto paghi? Addirittura c'è una promozione. È a 7,99 euro mi pare, non mi ricordo adesso. Bisogna andare su. 100 giga mi pare. No, tu c'è ancora la vecchia, ma questa nuova lei c'ha 50 giga, ma mi sembra che con 7,99 euro mi pare che ti date 100 giga. Ma l'automatico ti fai tanta goccia e paghi anche di meno. Ma io pago 5,99 6 euro, là c'ho 70 giga, minuti limitati, messaggi limitati. È meglio la Riad sempre. Qualche euro in più, però c'è 100 giga. Questa nuova che uscita, ma è meglio in tutto, Mi ha mai dato problemi. Adesso vediamo. Ma è l'automatico, te lo fai tu stesso. Ma poi ti guardi la cosa, io ho scelto l'IAD. Il video e via. Aspetta 2 secondi, devo controllare un pacco, aspetta. Appa. Niente. Non c'è niente ancora. Lo arriva domani o dopo domani. Stavo dicendo. Adesso mi dà proprio coso là, che non c'è. Non prende, non c'è segnale, zero. Allora ci stiamo a domani. Sì, è più giù baetta. Cappa. Non hai provato a chiamare? No, mi mando un messaggio su WhatsApp. Ha detto che ci sono dei problemi che ancora non risolti. Stanno provvedendo a risolvere il problema. Ma di capi? Cappa. Già si trova bene Sara, ce l'ha tanto tempo la Liad. E anche io una di Liad, ma è finita in mano, ma non mi ha finito. Vabbè, qualche giorno che mi si va il male, gliela blocco. Ci sentiamo, ci vediamo di là tanto, dai, ci facciamo un salto sabato però, Venerdì no, venerdì siamo giù alla Marina. Dopo il mare saliamo su, ci mangiamo una pizza, rimaniamo un po' lì, poi ce ne rientriamo a casa. Perché Maria poi domani lavora. Ma ci passiamo sabato, dai, ok, ciao. Ok, allora io ci passo domani così e poi ci vediamo a fine settimana. Cappa. Ma che lavoro fa Marina? Pulizia, tu. Ah, ho capito. Ok, dai, ci sentiamo, allora ci vediamo là sabato. E via. Via. Ciao, ciao anche a Sara, ciao a tu, buonanotte. Ciao, ma prima la curiosità, ma tu la testa l'ha fatta là? No, assolutamente no. No, io l'ho fatta per non rompermi la palla. Ok, ciao. Se la fa chi va spesso, capito? Io ci vado un po' più spesso, ma non sanno il cuero che mi fanno né caldo né freddo. Ok, dai, ciao, ci sentiamo. Non è il fatto di 5 euro, tanto, non posso farmi un cicone o una tessera, cosa che tu mi gusta. Vabbè, ciao. Ciao, non lo sapevo. Ciao.